Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti anche per questa ripresa di settimana, lunedì 13 gennaio, con l'internazionale che ha attraversato questa opposizione in piazza a Teheran e da continue fibrillazioni del governo italiano nella politica interna, ma subito allora Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno ad ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati anche per oggi, lunedì 13 gennaio 2020, con il web notiziario di Radio Bullets, come di consueto il lunedì, dedicato alle notizie di genere. Noi cominciamo dalla Germania, perché dal 1 gennaio 2020 l'aliquota su assorbenti e tamponi in Germania è diminuita dal 19 al 7%, effetto questo di una decisione presa dal governo quest'autunno. Per sostenere la proposta erano state presentate oltre 80.000 firme, cifra tuttavia bassa in un paese di 80 milioni di abitanti. Nonostante ci siano state molte perplessità, l'IVA alla fine è stata abbassata per tutti i prodotti. Le maggiori critiche sono state poste dal punto di vista ambientale, poiché si tratta di prodotti usa e getta che hanno un forte impatto. Sono critiche nate già in seno al Parlamento europeo, dove due anni fa era stata accantonata l'ipotesi di inserire tamponi assorbenti nell'elenco dei prodotti inquinanti da mettere al bando. A far decidere in tal senso era stata, tra l'altro, la minaccia dei produttori di far pagare agli utenti finali, dunque alle donne, i maggiori costi derivanti dalla tassa ambientale. In Germania la proposta di abbassare la tassa sugli assorbenti era stata fatta propria anche dai Verdi, in nome del diritto alle donne a non venire penalizzate economicamente e soprattutto in nome della discrepanza di tassazione tra prodotti di lusso e non di lusso, con gli assorbenti inseriti nel primo gruppo. Una confezione di assorbenti costava in media fino al 31 dicembre circa 3 euro per prodotti di media qualità, cifra che scendeva intorno a 1 euro per prodotti di più bassa fascia. Restiamo in Germania, dove continua a crescere la percentuale di donne nei consigli di amministrazione delle grandi società, ma il loro numero rimane decisamente basso rispetto a quello degli uomini. Al 1 gennaio 2020 un totale di 64 donne erano presenti nel consiglio di amministrazione delle 160 società dell'indice DAX, il 10% in più dell'anno precedente. Peccato però che dall'altra parte ci siano 633 uomini, cioè 10 volte tanto. Certo, negli ultimi 5 anni si è passati dal 5 al 9,2%, ma restano sempre numeri molto piccoli, soprattutto se si considera che il 66% delle società in questione non ha neanche una donna nel proprio consiglio di amministrazione e solo una società su tutte quelle considerate ha come capo una donna. È Jennifer Morgan, che è la co-guida del gigante del software SAP da ottobre. If you can't be careful, try to be good. Well, we cared and we cared as much as we could. We always agreed, me and my man, we said someday we'll try the family plan. The first thing we tried was nothing at all, 'cause the amateur ride and everything's here for. We charted my tides, followed my moon, but then someday came a little too soon. I got the 9 months of blues. Il 22 gennaio del 1973 la Corte Suprema degli Stati Uniti si pronunciava su un caso giudiziario che avrebbe segnato negli anni a venire il diritto delle donne ad abortire. Era la causa Roe contro Wade e con quella sentenza la Corte Suprema riconosceva le libertà di scelta delle donne sulla salute riproduttiva. 47 anni dopo i repubblicani provano di nuovo a cancellare quella norma, sperando di ribaltare la sentenza di allora. Il 2 gennaio scorso 200 parlamentari repubblicani hanno scritto alla Corte nell'attesa del pronunciamento dei giudici su un altro caso, quello della Louisiana, che verrà discusso a marzo e che potrebbe generare un precedente di senso contrario a quella storica sentenza. Andiamo con ordine. Nel 1973 la Corte Suprema ha riconosciuto il diritto di una donna, dallo pseudonimo di Jen Roe per tutelarne la privacy, ad abortire anche in assenza di problemi di salute suoi o del feto, riconoscendo in sostanza il suo diritto alla libera scelta. La norma da allora ha fatto giurisprudenza e condizionato le leggi dei singoli stati. che non possono essere contrarie a quanto stabilito da quella sentenza. Nonostante questo, diverse volte gli stati hanno votato leggi di senso opposto, l'ultima volta in Alabama, sperando di finire davanti alla Corte e poter ribaltare la sentenza. Questo finora non è mai avvenuto, ma oggi la composizione della Corte è profondamente cambiata e il Tribunale Supremo è fortemente orientato in senso conservatore. In particolare gli occhi sono puntati su Brett Kavanaugh, ex assistente di Bush scelto da Trump e la cui nomina è stata approvata dal Senato nel settembre 2018. I think Kavanaugh really is trying to also position himself as a centrist. But what we've seen is the increasing politicization. Penso che Kavanaugh sia davvero cercando di posizionarsi anche come un centrista, dice Cinzia Zuu, professore di diritto alla scuola di legge della Università di New York, intervistata da Sarah McCammon. Ma quello che abbiamo visto è la crescente politicizzazione della Corte Suprema e la campagna elettorale promette di nominare come giudice quanti sono a favore o contro il rovesciamento di questa sentenza, e penso che questo creerà una certa pressione politica su Kavanaugh e gli altri giudici. In favor or against overturning Roe v. Wade, and I think that that's going to create some political pressure on Kavanaugh and the other justices. In effetti, anche se se ne parla meno, anche 200 membri democratici del Congresso hanno presentato un'analoga richiesta, ma di segno contrario, alla Corte. Che l'aborto sia uno dei temi della campagna elettorale negli Stati Uniti non è una novità, ma quest'anno sembra che ci sia una maggiore polarizzazione. Per l'anniversario della sentenza Roe v. Wade si preparano diverse manifestazioni con gli integralisti religiosi in primo piano. A New York, intanto, ha aperto questa settimana un'interessante mostra al titolo L'aborto è normale. Tutte le opere sono in vendita per raccogliere fondi da destinare alla ONG che si occupa di tutelare i diritti delle donne. This stupid booth with this useless little lever in my hand and outside my city's Il governo spagnolo tornerà a garantire l'aborto per le ragazze minorenni anche senza il consenso dei genitori? Sembrerebbe proprio che questo sia l'orientamento del nuovo esecutivo, il primo di coalizione nella storia della Spagna post-franchista. Nell'accordo tra il Partito Socialista di Sánchez e Unidos Podemos di Iglesias Montero è scritto che il governo favorirà l'accesso all'interruzione volontaria della gravidanza per tutte le donne nel sistema sanitario nazionale nel quadro della legge sulla salute sessuale e riproduttiva del 2010. Quella legge, varata da José Luis Zapatero, consentiva alle ragazze tra i 16 e i 18 anni di poter abortire senza l'assenso dei genitori in caso di gravi conflitti familiari. Poi nel 2015, con il governo Rajoy, il consenso era diventato di nuovo obbligatorio. Ma il nuovo governo ha ottenuto la fiducia con una maggioranza davvero minima, di appena 2 seggi. Certo, ci sono quei deputati che non hanno votato la fiducia ma appoggiano una riforma in tal senso, e ci sono anche deputati del Partito Popolare che sarebbero d'accordo, ma la strada non sarà facile, non lo sarà nemmeno per le altre riforme relative alla salute riproduttiva, come la contraccezione di emergenza. Resta la nota positiva di aver messo sulla carta tutti questi temi. Ieri però l'ultradestra di Vox è già scesa in piazza in diverse città spagnole contro il nuovo governo. Per adesso l'offensiva è stata circoscritta a un generico pericolo di comunismo e di perdita di sovranità. Lo slogan era «Spagna esiste», ma il prossimo obiettivo del partito di Santiago Abascal è chiaro. La giornalista Samira Ahmed ha vinto la sua battaglia contro la BBC dopo aver portato l'emittente pubblica britannica in tribunale per averla pagata meno di un collega maschio che faceva lo stesso lavoro. No woman wants to have to take action against their own employer. I love working for the BBC. I'm really glad it's been resolved. La condanna nei confronti della BBC è arrivata sulla base della legge sulla parità retributiva, che è diversa dal divario retributivo. La prima è illegale, il secondo invece è concesso, ma deve essere reso pubblico se la società ha più di 250 dipendenti. La legge sulla parità retributiva la si trova nell'Equal Pay Act del 1970 e adesso fa parte dell'Equality Act del 2010. Significa che tutti i dipendenti hanno diritto alla parità di retribuzione, indipendentemente dal fatto che siano a tempo pieno, a tempo parziale o coloro siano contratti temporanei. Ricordiamo che quasi esattamente un anno fa, il 16 gennaio del 2019, le dipendenti comunali di Glasgow in Scozia avevano ottenuto una storica vittoria, 548 milioni di sterline, per compensare le disparità retributive con gli uomini. E andiamo a chiudere con il Malawi, dove l'associazione di donne avvocato ha annunciato di aver intrapreso un'azione giudiziaria contro gli agenti che nell'ottobre scorso si sono resi responsabili di ripetuti stupri e nei cui confronti i vertici della polizia non hanno preso provvedimenti. La presidente dell'associazione, Tadala Cinkvezule, afferma che le donne avvocato sono state costrette a intraprendere un'azione legale perché la polizia ha chiaramente rinunciato alla sua responsabilità e al suo dovere costituzionale. I fatti sono avvenuti all'inizio d'ottobre, il 9 ottobre, dopo la morte di un sovrintendente di polizia, lapidato dalla folla durante una manifestazione. Subito dopo, decine di agenti di polizia sono intervenuti, arrestando indiscriminatamente le persone. In quella che media locali hanno definito una notte di follia, decine di donne sono state fermate e violentate dagli agenti. La Commissione per i diritti umani del Malawi ha accertato 17 casi di stupro per i quali ha presentato denuncia. E questo è tutto per quello che riguarda il web notiziario di oggi. Io vi lascio con i programmi di Radio Città Fujiko per chi ci ascolta da Bologna, con il resto delle nostre rubriche. Per chi ci ascolta online, vi do appuntamento a domani con Barbara Schiavulli. Una buona giornata, un buon ascolto. Down south where they use the slide machine. Machine. trying to get back to you. Trying to get back to you. Bugna ritorna dalla trasferta di Torino con francamente tanto mare in bocca, perché purtroppo ricalca un po' di trame che quest'anno si sono viste, ahimè, diverse volte, ovvero Bugna che alla prima esattezza, al primo errore, ognuno la può vedere come crede, viene subito punito e subisce gol dopo poco più di 10 minuti. Berenguer. Poi da lì, onestamente, dopo qualche istante di sconforto, inizia a produrre gioco e il leitmotiv che abbiamo visto nelle gare precedenti è quello di avere tante occasioni di non saperle sfruttare per imprecisione, mettiamoci anche bravura del portiere, però è quello di non capitalizzare degli investimenti di gioco molto molto importanti. Bologna che onestamente torna a casa con una sconfitta non meritata, ma purtroppo se non si segna difficilmente si vincono le partite. Bologna che ha avuto un momento nel primo tempo dove è stato salvato dal palo che ha colpito Verdi, però soprattutto nel secondo tempo ha aumentato la sua mole di gioco e Palacio si è reso protagonista per questa volta in maniera diciamo così non positiva. Il palo, ma non è neanche tanto probabilmente che chiedono vendetta le due chiare occasioni che ha mancato verso la fine della gara. Però un giocatore come Palacio non puoi mettergli la croce addosso, visto la mole di lavoro che ha fatto, se non in questa partita, nelle altre. Certo che questa squadra paga e probabilmente pagherà, auguriamoci di no, anche in prospettiva, questa diciamo così scarso feeling con la precisione sotto porta. Erano due partite, questa di Torino e quella di domenica scorsa in casa con la Fiorentina, che per alcuni erano un po' il banco di prova per vedere se si poteva mettersi in scia per l'agognata posizione in Europa. Un punto in queste due partite sicuramente allontana questa idea, questo sogno, che probabilmente sarebbe stato diverso se i punti fossero stati 3 o meglio 4 in queste due gare. Un Bologna che ha presentato ieri, seppur a gara iniziata, Dominguez, che ha fatto vedere nel poco che ha giocato, poco più di un quarto d'ora, buone cose, essendo anche propositivo. In settimana dovrebbe arrivare l'ufficialità dell'arrivo dell'Atalanta di Moussa Baro, un giocatore sia una punta esterna, comunque un giocatore che soprattutto nella primavera ha fatto buone prestazioni anche a livello realizzativo. Nell'Atalanta era un po' chiuso, quindi ha cercato di venire, come ha detto il suo procuratore nei giorni scorsi, in una squadra con un attore che non ha mai dimostrato di avere timore nel lanciare dei giovani. Quindi sarà sicuramente un'addizione importante, vista la partenza di destro in quel di Genoa. Vediamo appunto quanto tempo ci metterà il giocatore ad inserirsi nella metodologia di gioco di Mihajlovic, per vedere di aumentare le reti di questa squadra. Una squadra che incontrerà domenica il Verona, che è probabilmente la rivelazione di questo campionato al momento. Quindi il pareggio ottenuto nella gara di andata, che molti avevano visto come due punti persi, probabilmente va ad essere rivalutato. Bologna che rimetteva in campo un Baie, che a mio avviso non ha fatto neanche una gara negativa, che ripeto deve cercare di di non pagare sempre pegno per qualche distrazione e cercare di nella gara di domenica prossima provare a ricominciare quel feeling con la vittoria che non è, è da un po' di tempo a livello proprio temporale che la squadra manca. Quindi vediamo come saprà reagire a una gara sfortunata. Chi ha sicuramente da parlare di gara sfortunata per l'approccio, per il risultato, la fortitudo che sabato sera perde in casa 7-7 a 80 contro Pesaro, un Pesaro che aveva chiuso il girone di andata senza neanche una vittoria, nella prima di ritorno viene al Paradozza e lo sbanca e mette un po' in così in discussione la squadra di Antimo Martino, che come ha detto poi nel dopo partita non ha approcciato se non nei minuti iniziali bene la gara. Poi da lì Pesaro che ha sicuramente la coscienza di essere praticamente ormai retrocessa, gioca probabilmente con la mente molto molto sgombra e ha quasi sempre mantenuto dall'iniziale vantaggio fortitudo sempre il pallino del comando, arrivando anche a circa 15 punti di vantaggio e se non nel finale i ragazzi di coach Martino hanno provato a rimettere in piedi la partita, poi la tripla dell'eventuale pareggio va nelle mani di Sims, che non ha sicuramente il miglior realizzatore dai 6:45, però cioè non toglie che alla fine è sicuramente uno dei migliori in campo, farà 16 punti, top scorer a Radori che nel finale ricucisce il divario, lui ne fa 13, ma onestamente una gara totalmente sbagliata come approccio. Ora la fortitudo sabato sera va in quel di Venezia contro una Reyer che è probabilmente ha ripreso un attimo il giusto ritmo, trasferta sicuramente difficile e la fortitudo fino a qui ha fatto capire che in trasferta non ha sicuramente dato il meglio di sé nelle altre gare, due vittorie soltanto, una a Pesaro e una a Cantù. Vediamo come sarà l'approccio di mentale alla luce di una sconfitta diciamo così più pesante per il morale che non per la classifica, che rimane ancora buona. Ricordiamoci che la Fortitudo si è qualificata da sesta alle Final Eight di Coppa Italia che si terranno dal 13 febbraio in quel di Pesaro. La Virtus invece vince in quel di Roma, vince 6-8 a 9-7, lo fa dopo la debacle in Coppa, la sconfitta di 18 punti in quel di Belgrado, che ha, diciamo così, come ha detto Hunter nel dopo partita, rimesso un po' di umiltà a questo gruppo, un gruppo che veniva dalle due vittorie del derby e di Milano che avevano rinfrancato un po' tutti quanti, e a Roma parte malissimo 9-0 e si vedono gli incubi delle partenze ad handicap di cui la Virtus è stata protagonista diverse volte quest'anno, poi visto che non era partito come nelle ultime gare in quintetto Teodosici viene rimesso in campo e da lì parte un parziale molto importante che consente alla Virtus di arrivare anche sopra i 20 punti alla fine del secondo quarto per raggiungere anche 32 all'inizio del terzo per poi essere poi recuperati da Roma. Una Virtus che ha 14 punti da Wims, ne ha 12 da Ricci e Baldirossi, 11 da Markovic e poi tutti quanti entrati in campo hanno realizzato 9 punti anche per Marcus Delia che ha sostituito Vincent Hunter che è rimasto a Bologna per una difficoltà a una caviglia. Una Virtus che torna in campo mercoledì per la seconda gara della Top 16 contro la squadra turca del Durassa Faka, inutile dire che per puntare al passaggio del turno, ricordiamoci che è un girone a 4 in cui passano le prime due, la vittoria è fondamentale. Sabato poi si torna in campo si ritorna al Paladozza dopo 5 partite giocate alla Segafredo Arena in Fiera, si gioca contro Pistoia, quindi sono due gare con un approccio due di impatti diversi, perché sicuramente dovrà sfaccare una squadra tosta, molto, molto fisica, di buon talento, mentre Pistoia è una squadra che sta cercando di salvarsi, quindi cercherà di metterla un po', diciamo così, sul ritmo basso, e lì dovrà essere bravo Giorgiovic a coinvolgere il più possibile i suoi giocatori. Dovrebbe rientrare nei 12 Hunter mercoledì. Vediamo queste due gare come verranno approcciate dalla compagine di Giorgiovic, che se abbiamo capito non difende con una certa fisicità, poi in attacco ha, diciamo così, un pochino più di difficoltà ad esprimersi. Ma vediamo, eravamo curiosi di vedere qual era la reazione del dopo Belgrado. Probabilmente Roma non è un grande banco di prova. Mercoledì sicuramente sarà più evidente capire la reazione. Per questa settimana è tutto, buona giornata. Segna stampa di Radio Città Fujiko. La rotta dell'informazione. 9:35 minuti di questo 13 gennaio, lunedì. Naturalmente partiamo dalla pagina internazionale con la crisi in Iran, dove l'abbattimento per errore, ma per fanatismo anche, di questo jet ammesso dal governo di Teheran naturalmente ha scatenato le opposizioni interne, foraggiate anche altrettanto ovviamente dagli Stati Uniti d'America. E allora, bella ciao a Baghdad, racconta Lorenzo Cremonesi in questo intreccio tra interferenze straniere e voglia di libertà interna. Fatima, Rua Hussein ed altri che occupano Piazza Tahrir. Qui sta nascendo un Iraq laico e una nuova società civile. Questo è l'Iraq, ma le crisi sono anche le contestazioni anche nella stessa Iran, di questi studenti in particolare che denunciano il governo di Teheran come un governo bugiardo, perché per 4 giorni aveva parlato solamente di errore, guasto dell'aereo e non di abbattimento per errore con un missile terra-aria. E allora c'è Trump che dice di essere dalla parte dei manifestanti, e Trump twitta anche in farsi, che non è una farsa, dalla tragedia alla farsa, è il farsi è la lingua. Popolo iraniano, sono con voi. Il presidente USA cerca di spondere i manifestanti e fa il record di like per un messaggio in persiano. Questo no, è il tema che arriva dal giornale a proposito di bugiardi. Ancora una volta verrebbe da ricordare che 30 anni fa gli americani, proprio loro, con un missile terra-aria ancora, abbatterono un altro Boeing, per errore anche quello, sopra il cielo di Teheran, ma non chiesero nemmeno scusa. E a proposito di cose di volo, sempre gli americani, vorremmo chiedere a loro dov'è il comandante Ashby, quello che per giocando a fare i Top Gun sul Cermis tranciò una funivia creando tanti morti, o ancora, a proposito di bugie e di verità, dopo 40 anni, perché ancora non ci dicono cosa è successo sui cieli del Tirreno, sull'aereo di Ustica, in questa battaglia franco-americana che ha battuto un jet in questo scontro con l'aereo di allora del regime di Gheddafi. Ecco, questi sono tutti bugiardi. Comunque, tra il fatto che la situazione geopolitica cambia con questo errore taciuto dei Pasdaran, ribolle la piazza di Teheran, basta Repubblica Islamica, dice il giornale che almeno amplifica le proteste per motivi ovvi di schieramento politico, ma è ovvio, è altrettanto ovvio che il dissenso c'è e come, ed è d'altra parte invece dal Fatto Quotidiano l'intervista va a Sergio Romano, l'ex ambasciatore e scrittore interviene nella crisi innescata dall'assassinio di Soleimani da parte degli Stati Uniti d'America. E ci dice Sergio Romano, un tempo molto ascoltato, oggi un po' meno: Trump è un caso umano, noi troppo docili con gli Stati Uniti d'America. Sarà anche un caso umano, ma è un caso umano che è a capo del mondo col dito sul bottone rosso nucleare. Sono certo che davanti al caos libico anche Crax e Andreotti non avrebbero saputo dove sbattere la testa. Questa della serie il governo influente nei problemi internazionali del Medio Oriente, del Maghreb, del Mashra. Nelle azioni degli Stati Uniti d'America non c'è l'ombra di una linea politica, solo scelte dettate da esigenze interne, e questo è un sospetto che abbiamo in tantissimi e rende ancora più anarchica e pericolosa la situazione internazionale. Ancora Sergio Romano, uno sguardo al futuro: credo che l'America non proseguirà nella sfida, l'establishment avrà invitato Donald a finirla e anche l'Iran non ha ragioni per tenere alto il conflitto. Aggiungiamo a Sergio Romano che anche gli stessi paesi facitori di guerra come l'Arabia Saudita, il Qatar, si sono presi paura per questa crisi del petrolio destabilizzante e adesso anche loro tirano il freno. Un occhio a casa nostra, questo è l'ultimo flash che arriva dal Fatto Quotidiano con l'intervista a Sergio Romano. Qui in Italia siamo in presenza di un periodo di apprendistato di questi nuovi governanti che non tende a concludersi. E anche Repubblica ci parla della rabbia dei ragazzi di Teheran, invece basta menzogne via il regime, sì, perché a meno di 2 mesi dalle più imponenti manifestazioni antigovernative della storia della Repubblica Islamica, ieri centinaia di persone sono nuovamente scese in piazza a Teheran per commemorare le 176 vittime dell'abbattimento del volo ucraino all'alba di mercoledì scorso. Stavolta i manifestanti non chiedevano più un ribasso del prezzo della benzina come lo scorso novembre, bensì, dopo le bugie sull'abbattimento del Boeing e la disastrosa gestione della tragedia aerea, più trasparenza e democrazia. Al grido di morte al dittatore, non vogliamo il regime dei guardiani della rivoluzione, per la prima volta hanno direttamente tirato in ballo anche la guida suprema, l'Ayatollah al-Khamenei. La polizia, in assetto antisommossa, ha caricato la folla riunita in piazza Azadi, lanciando gas lacrimogeni, mentre sui social venivano pubblicati video che mostravano agenti sparare sui manifestanti. Del resto, nel primo pomeriggio, le forze Quds, unità d'élite dei Pasdaran, avevano detto che non avrebbero esitato a usare la forza per placare le proteste, accusando i manifestanti di essere seguaci degli Stati Uniti e di Israele. Perché questo? Perché c'è una storia che ci racconta, sempre dalle pagine di Repubblica, Gabriella Colarusso, ovvero l'Ateneo ribelle che non calpesta le bandiere USA e di Israele. Non le vogliamo calpestare perché non vogliamo nemici, non vogliamo la guerra, vogliamo un governo responsabile. Amir, che preferisce parlare senza dire il suo vero nome, ha 35 anni, fa il grafico, vive a Teheran e ieri mattina guardava con soddisfazione le immagini che arrivavano sul suo telefono dall'università Shahid Beheshti. Centinaia di studenti si erano dati appuntamento per una veglia in ricordo delle vittime del Boeing ucraino abbattuto dalle guardie rivoluzionarie per protestare contro il tentativo del governo di nascondere la verità, la prima di una serie di manifestazioni che hanno attraversato il paese per tutta la giornata. Arrivati al raduno, gli universitari si sono rifiutati di camminare sulle due bandiere, una americana e una israeliana, disegnate sull'asfalto davanti all'università. Ce ne sono diverse in giro per il paese, il governo le fa disegnare perché così durante le manifestazioni possono essere calpestate in segno di sfida verso due paesi considerati nemici. Insomma, c'è proprio anche un cambio di visione e di passo che viene da questi ragazzi. Le foto emblematiche sono appunto di queste due bandiere viste dall'alto e i ragazzi intorno che le circondano e non le calpestano. E ancora, Francesca Paci, invece, tra le storie che ci riporta la stampa, ci racconta delle ragioni dello scontento che sono carovita e corruzione. Il nemico ce l'abbiamo in casa, non è l'America, e i manifestanti invocano il ritorno dello Shah, ci mentono additando gli Stati Uniti come nostro avversario, il regime è rimasto spiazzato da noi. Certo che invocare il ritorno dello Shah mette in discussione la libertarietà di questi personaggi. Comprensibile comunque la voglia di pace, dovrebbe chiedere magari di Israele America se questa pace non si chiama deserto come hanno fatto in Iraq, e perché il problema chiaramente è quello del petrolio, oltre che dei regimi fanatici che si schierano un contro l'altro, vedi Israele contro l'Iran o l'Iran contro Israele. Allora, fanatici, secondo Edwy Plané, che arriva dal Fatto Quotidiano, in questa sua traduzione dal giornale The Guardian, spirano venti di guerra, generale ucciso, gli USA il vero stato canaglia. Quindi c'è un altro tipo di narrazione. Rischio conflitto mondiale, l'assassinio di Soleimani, un crimine di Stato illegale e irresponsabile, può scatenare reazioni e scatene che possono sfuggire al controllo dei vari attori coinvolti. È vero che forse nessuno vuole attualmente la guerra guerreggiata totale, ma giocare col fuoco a volte ci si brucia, non si controlla più il mostro che si crea. Questo è un po' il ragionamento che arriva da questo spirare di venti di guerra. Al futuro non si può raggiungere un equilibrio mondiale senza una ferma condanna dell'atteggiamento degli Stati Uniti d'America, che invece di proteggere i suoi alleati li espone a grossi pericoli. Questo è quanto. Dall'Iraq alla Libia, allora andiamo al giornale, che ha il solito leitmotiv, perché di fronte all'impotenza oggettiva dell'Italia davanti alle guerre con attori internazionali ben più corposi, il centrodestra non sa altro che dire, senza dar soluzioni, perché nessuno ce le ha, che è il governo che è ininfluente, mentre se ci fosse Salvini sai che influenza. L'Italia ai margini dell'asse russo-turco, questa è la lamentazione di Gian Mica Lessin. Resiste il cessato il fuoco, Conte è costretto a telefonare a Putin per elogiarlo, perché se Conte non parla con Putin è fuori dai giochi, se Conte parla con Putin è costretto. Questa è la lettura univoca che dà il giornale. Qualunque cosa faccia Conte, giusto o sbagliato che sia, ha sempre torto. Dichiarazioni patetiche. Anche Di Maio prova ad attribuirsi un ruolo nell'intesa, fatto la nostra parte. Questo è il giornale su questo versante. Sì, e andiamo avanti con ancora la questione che sta a cavallo tra Italia e Libia, perché dopo l'incontro di ieri di Conte, di ieri e dell'altro ieri, insomma, con le due parti in causa, oggi si parla di caschi blu europei a Tripoli, arriva il secco no di Renzi, PD e 5 Stelle favorevoli a presentare la proposta di una forza di pace alla conferenza di Berlino. Oggi il premier Conte sarà in Turchia per un vertice con il presidente Recep Tayyip Erdogan. I dubbi di Bruxelles, in salita la strada per la missione in Libia, per molti governi l'iniziativa è prematura, intanto quindi si esprime massima cautela proprio da Bruxelles sull'ipotesi lanciata dal ministro degli esteri Luigi Di Maio, che vorrebbe una missione di pace europea in Libia. L'idea, già accennata nei colloqui informali dei giorni scorsi tra alcuni ministri UE, non viene ufficialmente bocciata, ma è difficile trovare qualcuno che la sostenga apertamente. La strada è tutta in salita, al momento si continua a lavorare soltanto a una sorta di operazione sulla falsariga di Sofia, con un mandato limitato al controllo dell'embargo ONU sulle armi alla Libia. L'altro giorno il capo della Farnesina è uscito allo scoperto con questa proposta, convinto di aver la sponda di Josep Borrell. I due hanno trascorso molto tempo insieme, stiamo parlando dell'alto rappresentante per la politica estera UE, Josep Borrell. I due hanno trascorso molto tempo insieme la scorsa settimana per discutere di Libia. Lunedì l'alto rappresentante è sceso a Roma proprio per incontrare a cena Di Maio il giorno successivo, poi entrambi sono volati a Bruxelles per il mini vertice a 5, quindi si sono rivisti venerdì al Consiglio Affari Esteri straordinario, ma sulla questione della missione di pace Borrell non si espone ancora. E ci racconta il reportage invece di Repubblica il fronte di Tripoli, il dolore non ha tregua, qui si spara ancora, la commozione per la vicenda di Abdomoez, 13 anni, ucciso dai cecchini, il suo corpo è rimasto per 5 giorni in un'auto, nessuno poteva intervenire. Questi sono i porti sicuri, diciamola così. Questa mattina, come sempre, non c'è una riga sullo Yemen, dove si continua a morire in silenzio. In compenso, l'affare di oggi è l'incontro dei duchi di Sussex. Come dimenticare? Allora, faranno i miliardari come reali o faranno i miliardari non essendo reali? È un dramma questo che in qualche modo ci coinvolge anche noi, ci prende completamente la nostra commozione, anche perché sono i figli di Diana, Lady Diana, la santa. Il rammarico di William, proteggevo Harry, ora non posso più farlo. È un paginone quello della sera con questa foto dei due ragazzi, altra faccia di ragazzi, diciamo dei rampolli imperiali in alta uniforme. Oggi il faccia a faccia, diciamo così, chiamiamolo faccia a faccia, dei due fratelli con la regina. Figli di Carlo e Diana, lasciamo perdere ancora. Dietro l'uscita di scena del minore, più che Meghan, perché Meghan è la rovina famiglia, no? Nella favola è sempre la donna che rovina lì. Stiamo parlando di favola descritta dai quotidiani italiani, perché in realtà... posso immaginare però che se leggiamo i quotidiani inglesi, The Mirror, perché ce l'hanno tutti con Meghan, i tabloid inglesi. È colpa di Meghan, perché se non ci metteva lei, donna fascinosa e pericolosa, lo zampino, la famiglia reale continuava a rifulgere nel suo splendore. Dunque, la frattura tra i duchi di Sussex e la famiglia reale è innanzitutto una rottura tra fratelli, tra i principi William e Harry. Quando si rompe una famiglia, a me non so come dire. È la riprova che si è avuto ieri quando il maggiore dei due ha fatto filtrare al Sunday Times, attraverso i soliti anonimi amici, la sua tristezza per il fatto che non sono più una squadra. Questo è quanto. E ho messo il braccio intorno a mio fratello per tutta la nostra vita, ma ora non riesco più a farlo. Ricordiamo che Harry, quel simpaticone che andava alle feste di amici visto da nazista, questo per dire il personaggio. E tutta l'America segue con ansia questo incontro in non so quale castello di mega polare della regina, in cui la 93enne regina col cappellino ne dirà quattro anche ai rampolli fuori linea. La domanda è: se sei un re e vivi da re, hai diritto a non fare il re, hai diritto alla vita privata? È la domanda che in qualche modo travaglia la nostra coscienza. Io vorrei citare una nostra giornalista, nostra nel senso del nostro territorio, Giorgia Olivieri, che segue da tempo le vicende della Casa Reale, tra le altre cose, e ieri scriveva questo su Facebook a proposito dei giornali, come dicevamo. Più approfondisco la Sussexit, Megxit non mi piace perché secondo me non è Meghan la regista dell'operazione, e più capisco che in giro si leggono solo fregnacce. I giornali italiani si abbeverano alla fonte dei tabloid britannici, che sono inviperiti con Harry e Meghan, visto che lei gli ha fatto causa. In realtà ho appena scoperto che ogni quesito ha in effetti una risposta approfondita appropriata sul sito successroyal.com. Tutto ruota infatti principalmente al meccanismo della stampa britannica, il cosiddetto Royal Rota, che è praticamente il gruppo di quotidiani, di giornali, di stampa, il gruppo stampa che segue ufficialmente le vicende dei reali. I due vorrebbero spezzare questa catena, il famoso passo indietro sarebbe proprio a favore di questo. In parole povere, vorrebbero allargare la platea dei loro interlocutori e non rispondere a quello che talvolta assume la forma di un ricatto nel momento in cui le storie vengono pettinate ad arte dai giornali, che avrebbero una sorta di monopolio. Due sono i punti che mi hanno colpito. Uno soprattutto dovrebbe essere di lezione anche per certe strutture italiane che favoriscono ancora i dinosauri e rendono difficile l'affermazione professionale di tante nuove leve che avrebbero voglia di dire la loro in certi campi. Il primo punto che Harry e Meghan sottolineano nel loro nuovo assetto comunicativo è interagire con le organizzazioni dei media di base e con i giovani giornalisti emergenti. In seconda battuta mi ha colpito un passaggio. Il duca e la duchessa credono in un'industria dei media libera, forte e aperta, che sostiene l'accuratezza e favorisce l'inclusività, la diversità e la tolleranza. In realtà dietro questa operazione probabilmente c'è molto di più che non la questione faccio il ricco dentro la casa reale o faccio il ricco fuori. Insomma, c'è un cambiamento anche di punto di vista e di posizionamento. E comunque, per sapere la verità, aspettiamo l'ultima serie di The Crown di Netflix per sapere appunto di cosa si tratta e dei palpiti, dei pulpiti della regina madre, della regina figlia, della cognata, della sorella della cognata, della sorella della sorella della cognata, eccetera eccetera eccetera. La frase risultante è: Gaetano Bresci aveva perfettamente ragione. I thought love was only true in fairy tales, and for someone else but not for me. Our love was out to get me, and that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying when all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind. I'm a Believer, The Monk, sono un bugiardo, dedicato alle bugie dei media inglesi, dedicato alle bugie di Trump di fronte al congresso, dedicato alle bugie delle leadership degli Ayatollah di Teheran, insomma sono tutti bugiardi. In Italia, insomma, anche qua non è che la verità splenda. Diciamo che c'è una certa smemoratezza almeno. Per esempio, leggo dal Corriere della Sera, ora la riforma dell'IRPEF, lo dice Conte in una lunga intervista al Corriere della Sera. Qui continuano a annunciare riforme, ma non fanno quelle annunciate precedentemente. Dovevano cancellare le leggi di Salvini sulla sicurezza e invece sono ancora lì. Non è che questi fanno la politica degli annunci, ma alla fine diventa un boomerang. Comunque, è una lunga intervista, l'ennesima di Conte, che è molto presente sui giornali ultimamente in queste sortite, che dice che la verifica sarà a fine mese e il voto regionale non è decisivo. Da sentire degli allarmanti indizi della reazione della politica sembrerebbe che si dia per persa la Calabria ma anche l'Emilia Romagna. Comunque speriamo che siano false avvisaglie. Il Premier: faremo un'ampia riforma di IRPEF e pensioni. La Lega spera di destabilizzarci con il referendum. Naturalmente la storia del referendum è uno dei tanti liquami della nostra politica, dove appunto chi è a favore vota contro eccetera eccetera, o viceversa, tutto per motivi strumentali al momento, tanto da rendere la politica sempre più impenetrabile nel suo senso profondo, anche perché forse l'ha perduto. La sua Libia, soluzione politica, ne abbiamo parlato. L'Italia è decisiva all'estero. Le autostrade, inadempienze gravi. Sembra che sull'autostrada si vada verso una revoca della concessione, perché anche il PD sarebbe d'accordo con i 5 Stelle, rimarrebbe solo l'alto là di Renzi. Mentre, sempre in questo quadro del governo e della sua maggioranza inizio dell'anno, una volta sporcatosi le mani con l'approvazione di una difficilissima finanziaria, ci dovrebbe cestinarlo subito, un usa e getta, insomma, 5 Stelle sale alla tensione su Di Maio capo, dissidenti all'attacco, l'espulso paragone, farò qualcosa con Di Battista, poi deve frenare su nulla di politica, perché c'è qualcuno che minaccia una scissione di 5 Stelle se c'è un posizionamento col centro-sinistra. Questo riporta il vecchio Busillis del movimento di Grillo, che a forte dire non di destra non di sinistra, alla fine c'è la resa dei conti. Inizialmente è una posizione che paga perché non ti compromette con nessuno e quindi non ti fa sporcare con le mani con nessuno, ma poi alla fine i nodi arrivano al pettine. Zingaretti invece è per l'ennesima, cambio del partito. Ogni tanto il Partito Democratico, PDS, PD, eccetera, non mi ricordo più neanche gli altri nomi che ho avuto nel frattempo, cambia nome, cambia simbolo e dice che si apre la società. L'abbiamo già sentita, speriamo che fosse la volta buona. Il Giornale, comunque, con un Zingaretti che riposiziona su posizioni di stampo cialdemocratico il PD rispetto a quello di Renzi, ne dice di male in peggio, risuscitano il PCI. Zingaretti imbarca l'EU e Conte giura, ora più sinistra, tesi copiata bufera sulla neoministra, perché si è copiata la tesi di laurea alla ministra della CUL dell'istruzione, che non è particolarmente un viatico di buona di presentazione. Sta di fatto che poi vediamo cosa farà concretamente, al di là delle tesi o non tesi. Ma l'intervista invece va alla Giorgia Meloni, un astro nascente, anche se col braccio teso, che perché aumenta i consensi eccetera eccetera, e che dice: mai il proporzionale, tutto il centrodestra deve fare le barricate, perché col maggioritario secco, più è secco più il centrodestra ci guadagna. Questo è il motivo per cui la Fratelli d'Italia è per il maggioritario, non per altro, evidentemente, non certo per ragionamento istituzionale di libertà, di rappresentanza democratica o quant'altro. È unicamente un interesse di bottega, come peraltro è in buona compagnia. La leader di Fratelli d'Italia ha vinto le regionali, chiederemo il ritorno al voto. Anche questo non è particolarmente una novità. Nel frattempo Salvini a Brescello dice: ora Peppone voterebbe la Lega, oppure con la doppietta sparerebbe su Salvini, vai a sapere, non si può mai dire. Comunque l'autostrada invece c'è il Fatto Quotidiano, la revoca è pronta, ora il PD è d'accordo con i 5 Stelle, la famiglia Benetton è spaccata sulla maxi multa. Non è la prima volta, parlando sempre di famiglie reali, che i due fratelli Benetton si dividono, e anche in modo aspro, sulla conduzione della baracca. Da Zingaretti alla ministra De Micheli, i Dem sono ormai convinti che un altro esito sia possibile, impossibile, anche perché Atlantia lavora solo sul contenzioso legale. Nel frattempo, ricordiamo, crollano i soffitti delle gallerie, insomma, è tutto di quello. Chi vi gira per l'autostrada gira incolonnato con delle file lunghissime, perché i ponti sono sotto sequestro o giù di lì. Il documento conclusivo in via di messa di punto dalle infrastrutture sarà in CDM, Consiglio dei Ministri, la prossima settimana, ed elencherà anche tutte le mancanze di ASPI, la concessionaria. Renzi, l'unico giallo rosa, è contrario, è solo Renzi appunto si mette di traverso, ma Renzi si mette di traverso tutto anche per far sapere che esiste, questo è quanto. Mentre per quanto riguarda le in Puglia, primari Dem, stravince Emiliano, come previsto, l'affluenza tiene, quindi diciamo che il PD vince sempre le primarie, e dopo che ha dei problemi. Sì, devo dire che potrebbe spuntare un'ipotesi sul discorso appunto dei decreti Salvini che tu dicevi non sono stati modificati. Mi viene da fare da teorizzare una cosa guardando le due pagine di Repubblica, pagina 2 e pagina 3 affiancate. Perché da un lato la Morgese ha nel cassetto per il momento una revisione soft che si limita ad abbassare le multe alle ONG e attenuare alcune sanzioni. Vorrebbe anche intervenire sulla stretta dell'accoglienza, ma lo stallo nella maggioranza è un grosso ostacolo, diciamolo in termini più prosaici, non ha i numeri per far passare una revisione hard dei decreti Salvini. Dall'altro, in un retroscena firmato Goffredo De Marchis, sempre su Repubblica, si parla dei timori del Colle per l'incostituzionalità dei decreti Salvini. Quindi potrebbe esserci anche una mossa della Lamorgese di fare intanto una modifica soft per poi farsi forza con una sentenza della Corte Costituzionale che dice che i decreti non sono costituzionali, per poter adire a un intervento un po' più massiccio, cosa che adesso non le viene permesso dai numeri in Parlamento. Vediamo, speriamo che sia, potrebbe essere un'ipotesi, insomma, non ne siamo certi ovviamente, ma così leggendo tra le righe spunta anche questo, e quindi ve lo do in pasto di riflessione. Per il taglio dei parlamentari è già plebiscito, ci dice Repubblica. Secondo il sondaggio Demos è favorevole l'86% degli elettori. Il consenso è più forte tra chi ritiene il Parlamento sempre meno necessario, che è il 95%, e invoca il leader forte. Allora, bene andare verso il taglio dei parlamentari, però forse in questo percorso bisogna recuperare problema culturale di considerare il Parlamento sempre meno necessario e invocare sempre di più il leader forte, perché queste due cose non portano bene per niente. Parliamo di pensioni. C'è questa ipotesi che ha spiazzato proposta di CGIL e CISL e UIL, che ha spiazzato il governo, di anticipare l'assegno di pensione a 62 anni. La proposta dei sindacati di andare in pensione a 62 anni con almeno 20 di contributi e nessuna penalizzazione spiazza il governo, e non solo perché ancora non c'è una data di convocazione del tavolo sulla previdenza inaugurato dal Premier Conte, ma anche perché le posizioni degli alleati divergono. A parole tutti vogliono risolvere lo scalone di quota 100 e riscrivere la Fornero, ma quando si passa ai fatti, Italia Viva insiste per cancellare quota 100, difesa dagli altri, e non disdegna le proposte più forti, come quella di Brambilla, già consigliere della Lega, di ricalcolare con i contributivo gli assegni di chi vuole uscire prima a 64 anni con 36 o 38 di contributi. Insomma, grande confusione sotto il cielo e soprattutto grande disaccordo. Il problema era ed è sempre lo stesso: i costi. Già all'epoca del governo Gentiloni quota 41 era stata scartata perché costosissima, e qualcuno tra governo e PD considera anche la controproposta dei sindacato, che pure contempla quota 41, infattibile per via dei costi, scasserebbe i conti del paese. Si ragiona. Sia come sia, il tema è sentito. Diciamo stop a quota 100 subito per evitare di alimentare aspettative tra i lavoratori che nel 2021 si tradurranno in una corsa insostenibile all'uscita, ragiona Luigi Marattin, deputato di Italia Viva. Non è accettabile dimezzare l'anzianità contributiva e abbassare l'età addirittura a 62 anni, come propongono i sindacati, ma certo i lavori non sono tutti uguali. Fa ridere comunque leggere addirittura 62 anni, sembra che stiamo parlando di trentenni, comunque vabbè. Ma abbassare l'età è un attentato al patto tra generazioni. Questo è l'analisi di Tito Boeri che vi segnalo sempre da Repubblica. Sì, perché le giovani generazioni godono nel precariato, questo vorremmo dire a Tito Boeri. Comunque anche sulle 24 ore fa questo link generazionale, cioè da una parte pensioni, le uscite di sicurezza. Da quota 100 a quota opzione donna, le misure ancora valide quest'anno per lasciare il lavoro in anticipo, stretta in vista al via i tavoli sulla spesa previdenziale. Tra l'altro, questo botte risposta, sempre incertezza sulla questione di quando vado in pensione, fa sì che la gente appena può scappa, perché non si fida giustamente un accidente di quello che viene domani, perciò ha solo un effetto di accelerazione. Ma detto questo, il Sole 24 Ore ancora ci racconta: si blocca il Job Act del lavoro autonomo, stoppa tutte le deleghe, scadono le deleghe per il lavoro autonomo previsto nel decreto legislativo dell'81-2017 che prevedeva, leggo dal Sole 24 Ore, partite IVA e professionisti in materia di malattie, maternità, sicurezza dei luoghi di lavoro, ammortizzatori sociali, atti pubblici in autosostituzione della pubblica amministrazione. Ma cos'è il lavoro autonomo? Non è tanto evidentemente quello dell'idraulico, quello del negoziante, i lavori diciamo storici. È il nuovo lavoro autonomo sulle famose partite IVA fantasma. Su questo interviene di fatto Antonio Polito con il nuovo lavoro così flessibile da non finire mai. E si prende spunto dal bel film, tremendo peraltro, l'ultimo di Ken Loach, al caso di Striscia Fluviale, cioè questi trasportatori che in realtà, essendo liberi professionisti, non possono neanche andare in malattia, altrimenti devono addirittura pagare delle multe per non le consegne. I nuovi impieghi che promettono la libertà ma rubano il tempo e divorano le famiglie. L'operaio industriale nella fabbrica o nel cantiere vendeva la sua forza lavoro. I nuovi proletari vendono il loro tempo ed è peggio. Non per caso la prima battaglia del movimento operaio fu sul tempo di lavoro. Il 1° maggio dell'86 fu indetto uno sciopero generale in tutti gli Stati Uniti d'America per la giornata di 8 ore. Finì col massacro di Haymarket a Chicago. 3 anni dopo la seconda internazionale fece di quella data, il 1° maggio, la festa dei lavoratori. I vecchi proletari si ribellavano perché non avevano da perdere che le loro catene. I nuovi non hanno nemmeno da perdere che il loro tempo di vita e con esso le famiglie, gli affetti, ogni gioia. Nel film di Loach, ambientato nel nord dell'Inghilterra, anche la moglie del protagonista lavora così: fa la badante, assiste anziani e malati a domicilio, viene pagata a vista da una società di servizi, più ne fa e più ne guadagna. Uno dei suoi assistiti è un'anziana sindacalista che era stata con i minatori negli anni 70, allibisce quando scopre che non ha un orario fissato per contratto, eccetera eccetera eccetera. Questo è la condizione del lavoro in questo momento. E, ma torniamo allora a questi dice essere la politica, ma come se queste cose non fossero la politica vera. Ma la politica è quella di cui parlano i giornali, e quindi per esempio la politica del giornale parla dell'allarme immigrazione. Si parlava di decreti Salvini, che tra l'altro, voglio dire, gli effetti Salvini si leggono sulle 24 ore, perché i migranti, bocciato l'asilo, scattano i ricorsi infiniti, i tribunali ne fanno, tutti i ricorsi bloccano l'intero, hanno bloccato la già intasata macchina della giustizia in italiana, grazie a Salvini anche per questo. Ma com'è la biada per il popolo piccione che legge il giornale? La pacchia non finisce mai, 3 milioni alla sinistra chic, più soldi ad ogni migrante. Questo è la diaria, aumenterà a 30-35 euro al giorno lo studio d'accoglienza ed enti vicini ai DEM. Naturalmente questa è una fantasia, no? Perché tra gli altri c'è qualcuno riconducibile all'ambiente del centro-sinistra. Ma e poi abbiamo Mattia Santori che è nell'occhio del ciclone continuato del giornale. La sardina fa l'anti-Salvini solo per aiutare gli affari della cooperativa amica. Dice: oh, c'è un conflitto di interessi. Il fratello di Mattia Sartori è... No, non è così. Santori invoca l'abolizione di sicurezza, del genere di sicurezza. Il motivo: sono scomparsi i posti di lavoro. È anche vero che degli operatori che lavorano per l'accoglienza, gente che si suda la mattina alla sera e si raccoglie e si guadagna il pane, e perde il lavoro. E allora dice: ma sono quei soliti giri della sinistra. Questo è il ragionamento acuto e abbastanza fraudolento e fin troppo scoperto del giornale. Ma nel frattempo invece Maria Teresa Meli dice che le sardine aprono una zingaretta e il PD porta il PD in conclave. C'è Santori che ancora una volta dalla Lucia Annunziata ci stanno ascoltando. L'interesse di Leo, per questo cambio di PD che si cambiava, ma Guerini attenti a non andare indietro, e naturalmente si riapre la questione del Partito Democratico sul ritorno, diciamo, alla Bersani del Partito Democratico. Sulle sardine poi c'è un sondaggio che dice, ed è dire che non è a fare questo sondaggio, che se si presentassero oggi alle urne con un partito, la Sardina, non so se proletaria, borghese o quant'altro, la Sardina, sarebbero la quarta forza politica dopo Lega, PD, 5 Stelle, scalzando Fratelli d'Italia. Il consenso del movimento infatti si attesta all'11,4%. Un altro elemento significativo della rilevazione è che le sardine non toglierebbero voti alle destre, ma le loro preferenze verrebbero sottratte soprattutto al PD e 5 Stelle. E noi abbiamo raggiunto la nostra redazione il direttore dell'agenzia DIRE, Nico Perrone. Sentiamo un commento su questo sondaggio. Noi siamo partiti la scorsa settimana quando, diciamo, nel corso di un'intervista una dirigente del movimento delle sardine ha fatto capire che presto sarebbe arrivato una sorta di congresso fondativo di questo movimento. Per noi che seguiamo, diciamo, l'attività politica, questo è suonato come un campanello d'allarme, cioè nel senso che dentro il movimento delle sardine si pensa a strutturarsi e a organizzarsi sul territorio, e da qui, insomma, l'idea di andare a sentire un po' un sondaggio nazionale tra i cittadini che peso avrebbero avuto, insomma, che genere di consensi, insomma, avrebbero raccolto. E l'11,4% è un signor risultato, pensando che Italia Viva di Matteo Renzi sta lì al 3,4 e Calenda al 2,3, diciamo queste nuove forze politiche partono molto più basse, invece le sardine con l'11,4 nell'attuale schieramento politico nazionale diventerebbero la quarta forza politica, insomma. Scalzerebbero la Meloni dalla quarta posizione. Sì, che sta intorno al 10 qualcosa, e quindi per noi questo è un risultato sorprendente, importante, però lasciatemi dire, insomma, che lascia un po' l'amaro in bocca, perché poi siamo andati nello stesso sondaggio che si può vedere sul sito della Dire, www.dire.it, l'abbiamo pubblicato tutto. Se andiamo a vedere dove pescano le sardine, pescano tutte nel campo del centro-sinistra, quindi prenderebbero moltissimi voti al PD, molti e molti voti al Movimento 5 Stelle, altri al campo, diciamo così, della sinistra diffusa. Diciamo, non ci sarebbe un travaso anche di voti, diciamo così, moderati o dell'altro schieramento, quindi rischia di essere un nuovo partito che fa male a quelli già deboli che ci sono nel campo del centro-sinistra. Sì, infatti questa è l'altra notizia, appunto, che emerge da questa rilevazione, il fatto di non scalfire le destre, insomma, Salvini, eccetera. I moderati, diciamo così, insomma, quel campo che potrebbe non essere etichettato di sinistra ma liberale, cioè che mal sopporta l'estremismo della destra e che quindi magari potrebbe anche guardare con simpatia a chi chiede più dibattito pubblico, più confronto tra posizioni, ecco. Non ci sono segni, come dire, di attenzione da parte di quest'area, chiamiamo così, moderata e liberale. Tu fai questo mestiere da tanti anni, sai decifrare al di là delle dichiarazioni formali poi quello che è la sostanza, perché inizialmente le sardine hanno, come dire così, rigettato l'idea di trasformarsi in un soggetto politico che si presenta alle elezioni. Ti chiedo se anche a fronte di questo tastare il polso potremmo mai in futuro vederli davvero sulla scheda elettorale. Secondo me ci stanno pensando, è chiaro che è una sfida decisiva, una sfida molto importante, però sai, quando tu senti parlare di assemblea fondativa, assemblea organizzativa, congresso organizzativo, strutturarci sul territorio, cioè sono tutte, diciamo, azioni collegate a un pensiero politico, cioè di struttura politica di un qualcosa. Non sarà facile, perché quando nasce un movimento, il movimento, diciamo, si muove sulle emozioni, e le emozioni, come dire, possono essere anche con sfumature diverse. Quando entreranno e a discutere di come strutturarsi, di come essere rappresentati a livello regionale, di chi dovrà occuparsi e di quali campi e in che modo poi arrivare alle decisioni vincolanti per tutti, beh, lì sarà un altro paio di maniche, non sarà molto facile, perché lo abbiamo visto anche nella vita quotidiana del Movimento 5 Stelle, che cosa significa poi passare, diciamo, da un movimento che protesta o che comunque si batte contro, poi a trasformarsi in una forza politica che deve cercare in tutti i modi di rappresentare non soltanto soltanto i propri, ma anche parlare agli altri. Sarà un passaggio semplice, io comunque guardo le sardine con simpatia, sono contento che siano scese nelle piazze, che abbiano mostrato che c'è un'altra Italia che non vuole più stare a guardare quello che fa la destra, che vuole dire la sua con toni pacati e spingendo al ragionamento e diciamo richiamandosi alla nostra Costituzione, quindi tanto di cappello, però ecco, ragionare come fare per non danneggiare, diciamo, lo stesso campo di azione politica. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. Una volta si diceva morto un papa se ne fa un altro, adesso invece morto un papa diventano due. Questo è il quadro, perché se il papa sul soglio pontificale, pontificio, è Papa Francesco Bergoglio, il papa dei reazionari è l'emerito papa dimissionario Papa Ratzinger, che è stato eletto in questo conclave della reazione come il vero papa portatore della tradizione. Questa cosa oggi viene simboleggiata con uno scontro che il giornale non a caso mette molto in evidenza l'un contro l'altro. Da una parte Bergoglio rivaluta la Madonna del Latte, cioè il capolavoro di Leonardo da Vinci, dicendo che le donne in questo rito del battesimo si possono anche allattare pubblicamente il loro bambino mostrando il seno, cosa evidentemente è impossibile per un certo tradizionalismo. E a fronte non è un caso che ci abbiamo la furia di Ratzinger contro i preti sposati, clamoroso attacco del papa emerito. Quindi abbiamo un papa per ogni collocazione politica. Ratzinger: il celibato è indispensabile, io non posso tacere. Questo è le riflessioni in un libro dopo l'apertura del sinodo. Il suo pensiero: urgente che i vescovi e i sacerdoti non si facciano più impressionare dai cattivi consiglieri, dalle diaboliche menzogne, dagli errori alla moda che mirano a svalutare il celibato sacerdotale. Questo è quanto. Mentre, in tutto segno contrario, è il papa alle mamme in Cappella Sistina: allattate pure qui i vostri bambini. Quindi c'è però una concezione, da una parte la chiesa dell'amore, dall'altra parte la chiesa del rigore, diciamola così. E questa cosa, papa, i due papi, è uno dei temi che troviamo oggi sui giornali. E devo dire che forse questo 2020 sarà ricordato ai posteri come l'inizio della messa in discussione e del più che altro di un tentativo di far partire una ristrutturazione che probabilmente durerà anni e anni, di istituzioni secolarizzate. Prima parlavamo della monarchia inglese, ora della gerarchia e delle modalità, diciamo, di gerarchia cattoliche. Non è un caso, e anche diciamo l'arte ha partecipato a questo, non è un caso che in entrambi i casi, scusate il gioco di parole, si citino delle fiction. Tu prima citavi The Crown per il discorso dei reali inglesi, si cita anche la fiction dei due papi per questa, diciamo, interferenza che esce oggi, in questi giorni, da Ratzinger sulle dichiarazioni di Bergoglio. Ratzinger difende il celibato dei sacerdoti, è indispensabile, non posso tacere, il monito del Papa Emerito in un libro dopo che il sinodo sull'Amazzonia aveva recepito l'apertura di Francesco. C'è da dire che Repubblica oggi ci racconta di una piccola inchiesta fatta, ce la racconta Paolo Rodari, dai battesimi alle omelie, le parrocchie senza preti rette dai diaconi sposati, cioè è già così ora, altrimenti chiudono. Se non ci fossero loro, molte resterebbero chiuse, appunto. Hanno un lavoro e dei figli, in Italia sono oltre 4.000. Solo negli Stati Uniti ce ne sono di più. Quindi questo è quello che ci racconta la Chiesa dei Due Papi. Ratzinger: non posso tacere, la tempistica non è delle migliori, dice il vescovo di Mazara Domenico Mogavero, invece il momento è maturo per una riforma. Ecco quello da cui siamo partiti. Da bambino mi portavano alla messa ed io seguivo la funzione con un'aria un po' perplessa. Il prete stava in piedi sull'altare col microfono, spiegava i passi del Vangelo con tono monotono. Col tempo e con la scusa di giocare all'oratorio mi infilarono nel mucchio catechismo obbligatorio. Perché non sta bene, non puoi essere diverso, emarginato come pecora smarrita dentro un bosco. Ti per bene, adesso di le preghierine. Non dubitare mai nell'esistenza del Signore. Lascia stare le tue fantasie sessuali di bambino. Quante volte ti sei masturbato il pistolino? Il prete in molti casi è un uomo molto presuntuoso. Nonostante l'apparenza di un sorriso zuccheroso, crede di essere il depositario di una verità assoluta. Ad ogni tua obiezione rigira la frittata. Prete, io non ho voglia di ascoltarti. Prete, non hai il diritto di insegnarmi niente. Sei bravo ad inventare e raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia. Se bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere in piedi la bugia più grande della storia. La bugia più grande della storia. La storia della Chiesa è seminata di violenza, di soprusi, la Santa Inquisizione, prepotenza e poi genuflessioni collettive dei politici, salvezza delle anime, la rendita degli immobili. Ma quanti belli affari fate con il Giubileo e quanti bei miliardi che sta alzando Padre Pio. Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe delle tonnellate di oro e delle vostre banche. Se Gesù Cristo fosse vivo si vergognerebbe delle chiese piene d'oro e delle banche. Prete, io non ho voglia di ascoltarti. Prete, non hai il diritto di insegnarmi niente. Sei bravo ad inventare e raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia. Sei bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere in piedi la bugia più grande della storia. La bugia più grande della storia. Perdonate questo sfogo troppo anticlericale. In fondo ognuno è libero di scegliersi la sua prigione, libero di farsi abbindolare, pionizzare dal papa, dal guru, dal capo spirituale. Ma la cosa deprimente che mi butta giù è vedere quella folla la giornata della gioventù. Folla di decerebrati sottosviluppati, deficienti, abituati ad essere obbedienti al papa. Io non ho voglia di ascoltarti papa, non hai il diritto di insegnarci niente. Sei bravo ad inventare, a raccontare favole per addomesticare le paure della gente. Non ho bisogno più di credere a un prete, se la Madonna piange sangue e noia. Sei bravo e fai di tutto per alimentare, per tenere in piedi la bugia più grande della storia. La bugia più grande della storia. Simone Cristicchi, prete che poco concede alla gerarchia cattolica vaticana. Detto questo, però, a messa non ci si dà la mano e i ristoranti restano vuoti. Effetto meningite a Sarnico. Bergamo, dopo due decessi, la psicosi alimentata dai social. Ovviamente i social ci mettono un carico da 90, moltiplicatorio in modo esponenziale. E comunque non c'è un posto libero sulle panche della parrocchia di San Pilastro a Villongo in Valcalepio. La bella chiesa settecentesca addirittura più affollata di solito questa domenica, perché quando sono le epidemie la gente va a pregare, si sa. La è ancora e c'è appunto il battesimo in corso, però non ci scambia il messaggio della pace per paura del contagio. Questo è il tradizione e modernità messi insieme. Andiamo invece all'Italia dei furbi. Veleni ma a norma. I fanghi, da concime bio a pericoloso inquinante, è il Fatto Quotidiano. Campi pattumiera, doveva essere un'alternativa per l'economia circolare, invece il decreto Genova ha allentato le maglie. Basta trasformarli in gesso e scompaiono i limiti per i rifiuti tossici. Quindi fatta la legge, fatta l'inganno. Problemi della purificazione. Il trattamento non elimina il gene di resistenza antibiotica, il risultato è la proliferazione di germi resistenti ai farmaci, quindi un danno davvero grande per tutti noi. Le maglie lente del legislatore hanno consentito l'infiltrazione delle mafie con inchieste e processi in corso. Beh, le mafie sono sempre più veloci di legislatori e anche di magistrati. D'altra parte invece vediamo la mangiatoia della mafia, visto che siamo in argomento, sempre nella pagina fronte del Fatto Quotidiano. Show della transumanza per brucare fondi europei. Bovine e pecore scaricate la mattina dal camion a Campo Imperatore all'Aquila, per poi ripartire il pomeriggio, così gli imprenditori del nord prendono i fondi dell'Unione Europea. Sono allevatori solo sulla carta, un po' come ieri e le mucche di Mussolini, questa volta con i fondi europei però. I comuni a maggio mettono all'asti i pascoli, finiscono in affitto alle solite società e nessuno poi controlla. Agricoltori virtuali e soldi veri. Per favorire gli amici veneti, l'agricoltore ha fatto tre denunce in procura, inutilmente la Lega al governo ha cambiato la legge e quindi anche la denuncia risultava inutile. Parliamo di donne. Dal resto del Carlino oggi ci viene detto che le donne al potere nelle aziende in Emilia-Romagna siamo al top in Europa come numero di imprenditrici, è una ricerca di Confartigianato, sono oltre 1,4 milioni, nelle Marche le imprese in rosa sfiorano quota 40.000, spiccano le province di Ancona e Fermo. E poi ci sono c'è l'intervista a Stefania Azzori, guida un'azienda con 800 dipendenti, e dice: le disparità ci sono ancora, ma negli affari essere donna rappresenta spesso un vantaggio. Sembra che questo vantaggio non venga recepito invece a livello nazionale nelle aziende editoriali che ci riguardano, diciamo, no? Nella stampa si parla di gender gap e ci racconta Data Media Hub che praticamente il direttore non è donna. La peggior situazione si riscontra nei quotidiani con solamente 4 direttori di sesso femminile su 59 testate. Non va meglio tanto di più per quanto riguarda i settimanali, con 9 direttori donna su 32 testate, anche se la situazione è in realtà peggiore, poiché lo stesso soggetto di sesso femminile è direttore di 3 testate, Donna Moderna, Two Style e Star Bene, quindi le donne scendono a 7 su 32. Va leggermente meglio, anche se si resta ampiamente sotto il 50%, per quanto riguarda i mensili. In questo caso infatti i direttori donne sono 2 su 5 testate, sono 20 su 50 testate, anche se ancora una volta ci sono 2 soggetti di sesso femminile che sono direttori di più testate, dunque il numero di donne in realtà è inferiore. Chiudiamo con un appuntamento di questo pomeriggio a Bologna alle 18 presso la libreria Copa Ambasciatori. Qui verrà presentato il libro di Stefano Pivato, Storia sociale della bicicletta. L'autore ricostruisce l'importanza che il mezzo di trasporto ha avuto nella storia anche per l'emancipazione di alcune categorie sociali. La nostra Teresa Fallavollita ha raggiunto l'autore. Sentiamo le sue parole. Con questo vi salutiamo. Ciao, alla prossima. Beh, intanto l'Italia umbertina, Italia di fine 800, perché gli ultimi 15 anni del secolo sono gli anni nei quali i modelli che poi diventeranno i modelli più popolari di bicicletta si affermano. Noi attorno agli anni 80 passiamo dal cosiddetto biciclo, che era quel veicolo che aveva la ruota gigantesca davanti, alta anche 2,5 metri, passiamo al modello che viene detto safety, cioè di sicurezza, che è il modello inventato dagli inglesi della Rover con le due ruote uguali. Quindi alla fine degli anni 80 abbiamo un modello molto simile alla bicicletta di oggi e via via i modelli si perfezionano per tutto l'inizio del Novecento fino a popolarizzarsi. Perché la produzione inizialmente affidata agli artigiani, poi in serie ai piccoli fabbricanti, consente la produzione delle biciclette a prezzi sempre più bassi, sempre più accessibili. D'altra parte l'aumento dei salari all'inizio del Novecento consente l'accesso alla bicicletta degli impiegati, degli operai, fin anche ai braccianti, ai contadini della Valle Padana. Questo siamo per i primi 20-30 anni della storia della bicicletta. Poi durante il fascismo c'è un'ulteriore popolarizzazione dovuta anche verso la fine degli anni 30 all'autarchia, cioè a quel regime in base al quale appunto si doveva assolutamente risparmiare sui carburanti e quindi i veicoli a motore vengono dismessi a vantaggio dei veicoli a 2 o a 3 ruote, appunto ai tricicli che sostituiscono un po' ovunque i furgoni. C'è poi la fase del secondo dopoguerra, che è la fase immortalata in un film come Ladri di biciclette, tra cui sceneggiatura, non dimentichiamolo, è di Cesare Zavattini, un padano, perché la Padania è la terra della bicicletta. Fino agli anni 60, quando inizia la motorizzazione, e con la motorizzazione la bicicletta viene appunto messa in disparte a favore dell'Italia. Da 600 esce dagli stabilimenti Fiat attorno alla metà degli anni 50 e inizio degli anni 60 cantano, l'elogio funebre appunto della bicicletta. Questa è un po' la parabola. Particolarmente interessanti sono anche le ripercussioni che l'avvento della bicicletta ebbe nel campo poi della morale. La bicicletta infatti crea scandalo, poco si addice sia al rigore morale dei preti, allo stesso modo viene considerata una minaccia alla pudicizia femminile. Come si evolve poi questo dibattito, cioè questo comunque tentativo di regolamentare i comportamenti e la stessa libertà anche delle donne in particolare? Diciamo che non appena la bicicletta appare, non esistono fra l'altro i modelli femminili, cioè senza il cannone davanti, che agevolano la pedalata delle donne che vestono appunto come i preti del resto la gonna, quindi la gonna è l'intralcio. Ecco, fin dall'inizio la pedalata delle donne è stata fortemente ostacolata. Da che cosa? Beh, dalla morale pubblica, perché si riteneva, sulla base appunto di rapporti medici, di articoli scritti da medici e non di secondo piano, anche da cattedratici universitari, che l'andare in bicicletta costituisse per la donna una sorta di onanismo, tant'è che vengono inventate anche delle selle particolari. È proibita anche per i preti, perché i preti andando in bicicletta scompongono la veste e quindi è ritenuto disdicevole. È proibita inizialmente, perlomeno anche agli ufficiali, per lo stesso motivo, non si può scomporre la divisa. Tutto questo gradualmente cade, per le donne inizia a cadere nel corso degli anni 30, perché il fascismo promuove l'attività fisica e dunque anche la bicicletta per le donne. Per i militari un po' prima, cioè durante la prima guerra mondiale, perché nascono i reparti dei bersaglieri ciclisti, i ciclisti volontari. Per i preti bisogna aspettare la fine degli anni 40, anni 50, se posso cavarmela direi che bisogna aspettare Don Camillo. Nel corso del primo film si vede una bellissima sfida in bicicletta tra Peppone e Don Camillo. La bicicletta ovviamente è sindaco, Peppone comunista, e da uomo quella di Don Camillo e da donna, meglio, c'erano dei modelli particolari per i preti, che si chiamava il modello Levita, senza la canna davanti, perché ancora non c'era stato il Concilio Vaticano II, quindi non si pedalava col cresime ma con la sottana. Ci vogliono 70-80 anni perché decadano appunto tutte queste riserve nei confronti della bicicletta. Uno sguardo al futuro, soprattutto in relazione alle ultime ondate di sensibilizzazione e consapevolezza sul tema ambientale. Secondo lei, quali saranno le prossime tappe nella storia dell'evoluzione della bicicletta? Continuerà a ricoprire un ruolo da protagonista? In che veste? Assolutamente sì. Teniamo presente che, come dicevo prima, negli anni 60, in seguito all'avvento della motorizzazione di massa, inizia il periodo di crisi della bicicletta, che viene però riscoperta quando? All'inizio degli anni 70, con la crisi petrolifera, le domeniche ecologiche appunto non possono circolare le automobili, bisogna risparmiare sulla benzina, c'è una riscoperta della bicicletta al punto che addirittura il mercato italiano non riesce a soddisfare le richieste interne. Ed è un'onda lunga che dura fino a quando? Fino a oggi, quando la bicicletta è entrata a pieno titolo nella crisi ambientale, è diventata il veicolo. Diciamo che se alla fine dell'Ottocento la bicicletta rappresenta la modernità, oggi la bicicletta rappresenta in un certo qual senso la polemica contro un certo tipo di modernità, cioè la modernità che inquina, per capirci, ma è sicuramente il futuro, è sicuramente la modernità del futuro, perché è un veicolo non inquinante.